Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento con l'Adico di Mestre, nuovamente un saluto a Carlo Garofolini che è con noi a telefono, benvenuto. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora Carlo, oggi puntiamo l'attenzione su una riforma che è la riforma Fornero, che in qualche modo avrebbe dovuto, come dire, incentivare il numero assunzioni a tempo indeterminato a scapito di quelle a progetto e quant'altro. Si è verificata questa cosa oppure è stata disattesa totalmente? Allora Francesco, una riforma perpetuata da un ministro che sicuramente per molti anni ricorderemo tutti per tante cose, ma che soprattutto nell'ambiente del lavoro ha lasciato un grave segno, perché quelli che erano tutti gli interventi che questa riforma voleva fare, soprattutto allo scopo di dover creare dei posti di lavoro, oggi sostanzialmente vediamo che come unico risultato abbiamo esodati a parte, certamente una criticità comunque del lavoro, dei contratti a tempo indeterminato, che sostanzialmente oggi registra un minimo storico senza precedenti, addirittura sceso intorno al 17%, e la scomparsa del precariato, che era una forma di collaborazione importantissima, perché aveva come finalità quello di inserire i giovani nel mondo del lavoro. Ecco, mi pare anche di ricordare da alcuni articoli dei giornali dei giorni scorsi che si parlava di un aumento del lavoro nero, perché uno a quel punto, viste le difficoltà e viste anche le impossibilità a essere assunto, magari pur di guadagnare fa di tutto e decide di passare al lavoro nero, no? Ma certamente questa può essere ed è una conseguenza che bisogna prendere atto, però bisogna dire anche una cosa, che se la riforma Fornero aveva l'obiettivo di creare occupazione, e noi dobbiamo dire che non si può creare occupazione per legge, ma si può crearla con gli incentivi, certamente oggi l'obiettivo di contrastare la flessibilità cattiva con l'utilizzo di contratti precari, come voleva prefissarsi questa riforma, invece cosa scopriamo? Scopriamo che sostanzialmente i lavori a tempo indeterminato sono diventati più flessibili e il tentativo di rendere più rigidi i contratti precari hanno indotto, come hai detto te, altre forme legali di collaborazione, ma soprattutto da parte delle aziende certamente molta più cautela per quanto riguarda la possibilità di assumere o meno soprattutto dei giovani, perché comunque anche tenendo conto quella che è stata l'intervista fatta su 500 aziende da parte di G-Group sul tema, addirittura oltre la metà sostiene che quando si tratta di assumere non sia cambiato nulla, e addirittura un altro 40% che le cose oggi come sono state gestite risultano più difficili e più costose. Quindi ancora maggior burocrazia. Maggior burocrazia, ma soprattutto anche maggior cautela da parte delle aziende, che sostanzialmente se prima potevano ricorrere a delle forme precarie più flessibili, oggi avendo posto dei paletti come la riforma Fornero ha voluto porre, rivedendo anche quelli che hanno le possibilità di poter rinnovare o prorogare dei contratti che si poteva fare prima, oggi certamente ha indotto le aziende a ricorrere ad altri espedienti o contare più sulle forze e energie interne anziché poter ricorrere a delle forme e degli aiuti esterni rispetto a quello che è un organico che le aziende ormai pensano soprattutto a collaudare anziché a sviluppare o a incrementare. Quindi la speranza, insomma, è di riprendere in mano tutto e di riformulare. Guarda Francesco, il fatto che oggi il 17% dei contratti, solamente il 17% dei contratti risulta a tempo indeterminato, quindi ci rendiamo conto che è un dato che sicuramente, al di là del fatto che è arrivato al minimo storico, però tiene conto di quello che è un atteggiamento che ormai le aziende hanno nel confronto di queste popolazioni in cerca di lavoro, ma soprattutto la cosa più grave appunto è anche il fallimento dell'apprendistato, che certamente in un periodo in cui i giovani in Italia risultano essere quelli più esposti a questa crisi, è un fenomeno anche di scoraggiamento, perché comunque non cercano più lavoro perché troppo stanchi a dover fare domande e trovarsi sempre rifiutati, e alle forme anche di sfruttamento che questi giovani molte volte si trovano vittime in certe proposte di lavoro che veramente risultano essere incredibili, comunque hanno indotto veramente, secondo me, una selvaggizzazione di un fenomeno che ormai sempre più frequentemente i giovani, ma anche le persone, gli stessi dipendenti, anche per effetto delle mutate condizioni di lavoro, stanno subendo, e certamente non aiutano e non incoraggiano le persone che comunque in questo momento si anche vogliono affacciare nel mondo del lavoro. Certo, ringrazio quindi Carlo Garofolini dell'Adico. So che tu, Carlo, vai in ferie per qualche giorno, quindi ti faccio veramente di cuore gli auguri di buone ferie, però l'appuntamento con l'Adico continua. La settimana prossima avremo con noi Gioia Barbato, giusto? Sì, ci sarà una collaboratrice dell'Adico che affronteranno altri argomenti, soprattutto argomenti che l'Adico in questo periodo estivo sta trattando, in virtù anche di quelle che sono un po' le attività che la segreteria, in particolar modo durante il periodo delle vacanze, sta sostenendo. E come hai detto te, Francesco, faccio gli auguri anche alla redazione e a tutti gli ascoltatori, sperando che insomma tutti quanti riescano a trovare l'occasione di trascorrere qualche giorno di riposo. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.